La novità dell'ultimo periodo con la formazione del nuovo governo è stata prima la bozza Calderoli, è un disegno di legge che va a disciplinare il passaggio all'autonomia differenziata, l'attuazione vera e propria, e poi addirittura l'inserimento nella legge di bilancio di un articolo, l'articolo 143, che prevede di definire entro 6 mesi i livelli essenziali delle prestazioni, che sono una sorta di minimo sindacale, chiamiamolo così, di diritti sul territorio. Questa cosa è un passaggio che in sostanza è un'accelerazione del processo, perché viene messo nella legge di bilancio questa previsione e si dice che se poi questi livelli essenziali di prestazione non vengono definiti nei termini stabiliti, si arriverà a definirli attraverso la cosiddetta spesa storica. Il problema dell'autonomia differenziata è che la maggior parte delle persone non sa di che cosa si sta parlando. Per esempio, parlare di spesa storica significa andare a toccare uno dei nodi fondamentali della questione, cioè che da tanti anni nel sud soprattutto del paese il funzionamento dei servizi, anzi l'attribuzione dei soldi per il funzionamento dei servizi è stata ridotta, cioè il disastro del mezzogiorno in termini di servizi che non funzionano deriva dal fatto che di fatto i finanziamenti sono stati ridotti. E poi c'è stato a partire dal federalismo fiscale c'è stato disciplinato, proprio è stato previsto che si dovesse andare a vedere quello che effettivamente per un certo servizio era stato speso fino allora. Allora poniamo il caso, esistono città anche di 100.000 abitanti dove storicamente non venivano fatti gli asili nido, ecco, a un certo punto sulla base del federalismo fiscale si è arrivati a prevedere che il finanziamento per gli asili nido in quel territorio dovesse essere pari a zero. Quindi noi ormai sono più di 15 anni che nelle regioni meridionali l'attribuzione di finanziamenti è stata già gestita in questi termini. Prevederlo proprio in termini di attuazione del dettato costituzionale che ha previsto l'autonomia differenziata vuol dire praticamente ratificare questa situazione, costituzionalizzarla e abbandonare qualsiasi prospettiva di una redistribuzione nei confronti delle zone più povere del paese. Questo anche perché tra le regioni che hanno fatto richiesta di autonomia differenziata ci sono Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, che sono tra le più ricche d'Italia. Esatto, è proprio così. Infatti questo progetto di autonomia differenziata è bipartisan, nel senso che è stata portata avanti da Lombardia e Veneto, ma anche da Emilia-Romagna, quindi da Bonaccini, dalla giunta Bonaccini proprio in prima persona, ed è un progetto che di fatto, strizzando appunto l'occhio a tutta la retorica del nord più capace, del nord più efficiente, in realtà è un progetto che vuole andare a ritenere qui nei territori il premio fiscale e quindi lasciando poi alla gestione dello Stato quello che residua. Bisogna pensare soltanto che come IRPEF questi 3 territori drenano il 45% dell'IRPEF, pensiamoci solo a questo. A livello nazionale? Quindi, a livello nazionale. È un progetto comunque che va a scardinare il sistema paese, va a drenare risorse che dovrebbero essere utilizzate nei confronti delle zone più svantaggiate, ma comunque è soprattutto un progetto neoliberista, perché poi i singoli territori, attuando questa autonomia, quindi attribuendo le potestà legislative di tipo esclusivo, poi ognuno gestirà da sé su tutti gli elementi, diciamo i settori più fondamentali della vita di una comunità. Quindi si sta parlando di scuola, di università, sanità ulteriormente perché è già stata regionalizzata, di appunto ambiente, di infrastrutture, cioè tutte quelle materie che uno Stato deve andare a disciplinare, che nel progetto di autonomia differenziata vengono avocate alle singole regioni che decidono come amministrarle, come regolamentarle, ognuna per sé. Io penso che per un cittadino sia chiaro se si guarda la sanità. Quello che è successo nella sanità, che è stata regionalizzata, per cui non c'è il servizio sanitario nazionale, ma ci sono tanti servizi regionali e quindi la possibilità di essere curati dipende da dove vivi e anche da quanti soldi hai. Ecco, dobbiamo pensare che questo succederà per tutti gli ambiti della vita di questo paese. È un progetto di scardinamento totale dell'assetto costituzionale. diverse, viene gestito di fatto nell'assoluta silenzio e inconsapevolezza poi dei cittadini. Perché per esempio un'organizzazione sindacale come la nostra sta facendo questa battaglia? E dobbiamo renderci conto che tutto questo scardina anche un contratto nazionale. Già il Veneto vuole avere la completa potestà di avere tutto il personale, oggi è diciamo statale, diventi regionale, ma poi ogni regione farà a sé, anche per la disciplina dei contratti.